Bene, allora le nostre ospiti sono arrivate, possiamo cominciare la trasmissione sulla scuola per l'infanzia. Ci interessava particolarmente perché questo praticamente abbraccia, è un argomento che abbraccia due piani che come femministe riteniamo fondamentali. Il piano del lavoro di cura, che è quello che ci interessa particolarmente e che ci coinvolge in prima persona. Il piano del ruolo e della riforma, fra virgolette, della scuola, che anche questo è un piano che ci interessa in maniera molto forte e che interessa la società tutta. Di tutto bisogna introdurre un concetto fondamentale che penso che sia di dominio pubblico, spero, e cioè che la scuola è comunque catena di trasmissione dei valori dominanti e quindi rispecchia immediatamente le scelte politiche, no? Questo a qualsiasi livello, quindi noi parleremo della scuola dell'infanzia, ma è un concetto che abbraccia la scuola tutta. Poi una nota, diciamo, a margine riguardo all'istruzione, che è sempre stata per esempio un mito della sinistra socialista, no? Cioè l'istruzione avrebbe dovuto aprire la mente delle classi subalterne e formare dei soggetti rivoluzionari. Invece che cosa è successo? È successo che la socialdemocrazia si è appropriata di questo progetto e l'ha declinato come pacificazione fra le classi, aprendo ad una possibile, quanto aleatoria, perché non lo sappiamo proprio, sappiamo che quello che è scritto sulla carta o quelle che sono le volontà, le belle volontà devono essere poi sempre declinate nel sociale, e comunque avrebbe potuto aprire una promozione sociale, no, per chi studiava. E infatti noi sappiamo che la scuola è sempre stato uno strumento potente di selezione di classe. Noi quando abbiamo fatto il palinsesto di questa trasmissione abbiamo messo l'immagine di una manifestazione di due maestre degli anni 60, due anziane maestre, che poi è un'immagine che abbiamo usato anche per l'iniziativa l'anno scorso Svergogniamo la meritocrazia, che è un'immagine di due maestre di una certa età che portano un cartello con sopra scritto la selezione di classe comincia a 3 anni, ed è una grande verità, e questa è una manifestazione degli anni 60. Quindi la socialdemocrazia si è appropriata del progetto della scuola, declinandolo come pacificazione sociale, no? E compresa quella della primissima infanzia, in quindi per gli anni 70 sono stati anni di sperimentazione, e da una parte anche effettiva, cioè ha avuto dei risvolti positivi, no? Per aprire la mente dei bambini sono stati sperimentati diversi modelli, però dall'altra aveva sempre questo obiettivo di addomesticamento sociale. Ora invece il passaggio al modello neoliberista, queste famose riforme di cui loro parlano in maniera assolutamente fuorviante, no? Il passaggio al modello neoliberista ha riportato prepotentemente i concetti di gerarchia, di meritocrazia, di autoritarismo. E proprio perché il neoliberismo si muove su due basi, cioè da una parte la scuola deve formare un individuo secondo la logica dell'azienda, deve essere un individuo merce fra le altre merci, no? La merce umana. Dall'altra deve abituare l'individuo fin dalla primissima infanzia ad accettare le ingiustizie, le disparità sociali, le guerre, il concetto di guerra, col ritorno prepotente a Dio, patria e famiglia. Anche con l'uso strumentale dell'antisessismo, dell'antirazzismo, no? Che viene introdotto proprio nelle scuole della prima infanzia, in maniera appunto strumentale, perché è innestato in concetti poi gerarchici, di gerarchie tra popoli, con il ritorno del concetto di patria, no? Per esempio, non si possono portare avanti il concetto di patria e allo stesso tempo il no alla guerra, e il concetto di superiorità occidentale e allo stesso tempo no alle guerre neocoloniali. Cioè, quello che poi è vincente è il modello che viene portato sul fronte interno, Dio, patria e famiglia. Tant'è vero che gli esempi delle presidi sospese perché non avevano voluto fare il minuto di silenzio per degli avvenimenti che riguardavano le guerre neocoloniali, oppure quello che non ha il maestro, l'insegnante che non ha voluto il crocefisso in classe, che è stato sospeso. Quindi c'è un ritorno prepotente a questi valori. About me when I'm gone, though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't you talk about me when I'm gone. Per riprendere il discorso quindi su quello che sta accadendo a livello della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido, ma non soltanto, insomma è un attacco che comprende tutto il mondo della formazione, e anche per introdurre le corrispondenze che faremo tra poco con due lavoratrici degli asili nido che sono in lotta contro le riforme che stanno avvenendo, contro questo nuovo contratto decentrato, volevamo portare l'attenzione appunto su come concretamente il passaggio che prima veniva descritto, no? Dal modello socialdemocratico a quello neoliberista è avvenuto. A nostro avviso una delle componenti e dei passaggi fondamentali di questo cambiamento sta nella venuta alla ribalta della valutazione come sistema e strumento di controllo. Cioè c'è un'ossessione valutativa che diciamo si dispiega non soltanto a livello del mondo della formazione, ma anche in altri campi lavorativi, no? Si incontra un po' dappertutto, che chiaramente è il veicolo attraverso cui appunto ribadire la meritocrazia e quindi anche la subordinazione in genere, perché questa nuova ventata meritocratica chiaramente è attiva su due livelli nel mondo della formazione, sia sui bambini e sugli studenti che sugli insegnanti dall'altra parte, insomma sui bambini e poi anche ragazzi, insomma in formazione è attiva, lo sappiamo, ad esempio ricordiamo le riforme del test Invalsi, no? Contro cui anche ci sono state delle mobilitazioni, cioè c'è un sapere che viene costantemente parcellizzato, che diventa sempre più nozionistico, per cui non vengono formati degli individui critici e consapevoli, ma semplicemente una forza lavoro, no? Che verrà poi messa a disposizione, tanto più è acritica, tanto meno si ribellerà, diciamo, alle condizioni ricordiamoci peggiori. Che la meritocrazia è comunque allo stucco della faccenda, in maniera semplicistica è la capacità di servire, è la capacità di adeguarsi e di servire. Questo non è altro che questo la meritocrazia, perché chiaramente risponde a una scala di valori che dà chi esatto esattamente, infatti cioè, è diciamo una scala di valutazione, cioè tutte le scale di valutazione, tutti i criteri e i parametri che noi assumiamo chiaramente non sono neutrali, no? Sono sempre finalizzati a qualcosa, sono funzionali a un certo assetto sociale, economico, politico, eccetera eccetera. Quindi chiaramente questa ossessione valutativa è legata ha parametri, criteri, griglie, ingiunzioni di comportamento che rispondono a un determinato modello. Quindi questi metodi valutativi come concretamente avvengono? Per esempio, se pensiamo a livello formativo universitario, è stato creato questo ANVUR, no, che è una sorta di all'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, che fondamentalmente applica criteri meramente quantitativi alla produzione accademica degli insegnanti e dei ricercatori, no? Per cui non conta più chiaramente la qualità del tuo lavoro, ma soltanto che pubblichi e lo fai in fretta. Quando c'hai un momento, non so, la crisi della pagina bianca, cioè vieni mandato a casa, no? Quindi chiaramente vieni anche lì, vengono precarizzati, diventano più ricattabili e quindi sono più subordinati, perché o stai dentro a quelle recensioni oppure al primo errore stai fuori. Al invece livello, appunto, per cui parleremo anche con queste lavoratrici, della scuola dell'infanzia, sta avvenendo invece attraverso una ridefinizione dei contratti di lavoro delle insegnanti degli asili nido e della scuola dell'infanzia, ridefinizione che passa attraverso questo nuovo sistema integrato di valutazione del personale. Per cui appunto anche le insegnanti diventano sottoposte a una continua valutazione, controllo, sorveglianza del loro operato, che chiaramente non tiene conto della loro capacità di formare, di stare con i bambini, insomma di fare attività il più possibili formative, ma viene semplicemente calibrato sulla loro disponibilità a aumentare il carico di lavoro e a rendere flessibili la loro disponibilità al lavoro. Quello che ci interessa però per sottolineare, prima di introdurre la corrispondenza, è che tutti questi dispositivi disciplinanti, che non passano quindi soltanto attraverso un inasprimento delle condizioni di lavoro, delle condizioni materiali eccetera, ma proprio puntano a un'introiezione di questi valori, cioè appunto gerarchici e meritocratici, hanno bisogno della collaborazione dei soggetti che vogliono disciplinare. Quindi tanto più io sarò, diciamo, incline e remissivo nell'accettare questi valori, anche se all'inizio penso sì, li accetto, però in realtà dentro di me io non la penso proprio così, finiranno invece poi per controllarci. E quindi invece è con molto diciamo entusiasmo che adesso ci collegheremo con queste lavoratrici che evidentemente questi valori non li introiettano. Sì, no, io a questo proposito volevo dire che del resto stesso anche, voglio dire, questa riforma in generale del lavoro, ma anche questo contratto decentrato è proprio in linea con questo apparato ideologico di cui tu parlavi, perché infatti se ci pensi si fa spessissimo. Ricominciamo da un altro microfono. Un errore. No, dicevo che del resto anche stesso questo contratto decentrato a Roma, ma così come in generale anche l'ultima riforma del lavoro, il Jobs Act, diciamo che sono proprio in linea con questo apparato ideologico di cui parlava prima Margherita, perché infatti, cioè, oggi se uno va sui giornali non legge altro che i lavoratori del pubblico impiego sono dei fannulloni, non fanno niente, ed è veramente una cantilena che va avanti da molto tempo. Quindi il gioco pubblico contro privato, garantiti contro precari, vecchi contro giovani, cioè sempre questo voler cercare, e anche, voglio dire, anche donne contro uomini, perché non ce lo dimentichiamo, e voglio dire, è uno di questi aspetti su cui punta tantissimo, voglio dire, le istituzioni, proprio per far passare poi queste leggi o in questo caso dispositivi, come l'ha chiamati lei, che in realtà poi concretamente non danno nessun miglioramento per nessuno, ma danno semplicemente un peggioramento per qualcuno. Infatti, cioè, quello che pure avevamo, per sintetizzare un po' questo contratto centrato, quello che avevamo detto è che nessuno avrà di più, ma qualcuno avrà di meno, perché quello che è chiaro, che ad esempio nello specifico delle maestre e che del contratto decentrato, è che ci sarà una gara tra, per dire, tre maestre, perché i soldi saranno disponibili solo per due, per cui ci saranno due che avranno gli stessi soldi di prima ma dovranno correre, e una che ne avrà di meno, quindi in realtà nessuno ci guadagna, quindi paradossalmente. that train station. The streets were full of junkies and homeless, and they all wanted something. They all wanted something. Sometimes look you in the eye, say that I too am human. I could easily be. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Allora sei collegata ciao. Con noi e ti salutiamo. Stiamo facendo, come ti avevamo preannunciato, questa trasmissione sulle scuole dell'infanzia e ci abbiamo introdotto un attimo l'argomento anche su quello che state facendo all'interno della vostra struttura, quindi ci farebbe piacere che ci raccontassi un attimo che cosa soprattutto. Almeno noi abbiamo introdotto il passaggio dalla scuola socialdemocratica a quella neoliberista, cioè questo passaggio, questo cambiamento. Scusami, dalla scuola? Cioè dalla scuola prima, diciamo, io l'ho chiamata socialdemocratica, prima del momento della riforma, tra virgolette, neoliberista, no? Che cosa ha comportato per voi questo passaggio? Allora, per noi fondamentalmente adesso si sta vivendo una situazione particolare, perché il Comune di Roma ha per la prima volta applicato un atto unilaterale, quindi un atto che riguarda tutti i dipendenti capitolini e che però appunto non è stato firmato da nessun sindacato. E successivamente c'è stata una preintesa firmata però solo da CISL, CGL e la RSU, e oggi si è svolto il referendum per dire sì o no, cioè il referendum dei lavoratori per dire sì o no a questa preintesa, e ti do la comunicazione ufficiale che ha vinto il no. Quindi i lavoratori hanno, comprese le insegnanti e le educatrici dei nidi delle scuole dell'infanzia, hanno in maggioranza votato no a questa preintesa. Sinceramente è una cosa anomala, perché quando si fanno i referendum di questo tipo vince sempre un certo tipo di risposta, chiamiamola anche di paura, no? Fra virgolette. Sì. Infatti siamo molto molto contente di questa risposta, perché è invece una risposta di coraggio, è una risposta che dice che comunque la preintesa è un accordo a ribasso, è un accordo che comunque non, soprattutto per quanto riguarda noi del settore scolastico educativo, non dava nessuna certezza, perché l'unica certezza è che, diciamo, le modifiche orarie, il rapporto dei bambini, il monte ore, le ferie, sono state sospese solo, perché l'applicazione di queste parti sono state solo sospese fino a giugno. Dopodiché non era scontato che passassero avanti, perché ci sarebbero stati poi ulteriori tavoli di trattativa e l'amministrazione era molto orientata a tornare verso l'atto unilaterale. Quindi è stata forte la risposta del no proprio di questo settore, perché hanno capito che non bisogna accettare né l'atto unilaterale né tantomeno la preintesa, ma bisogna tirar sulla testa e far valere la dignità e continuare a lottare per avere un contratto che rispetti, oltre il nostro lavoro, anche i diritti dei bambini. Senti, quindi ora che pensate di fare più concretamente, quindi ora dopo questo no, Quali sono i prossimi passi? Concretamente, dopo questo no, l'amministrazione è comunque obbligata a riaprire i tavoli di trattativa, perché non può applicare in via definitiva un atto unilaterale. Quindi per noi concretamente la lotta continua, questo no ci dà la possibilità di ottenere qualcosa di meglio. Diciamo che come al solito costringono chi lavora a battersi poi su problemi, diciamo, molto concreti, tipo, non lo so, appunto gli aumenti o comunque i tagli o comunque le ore o comunque, no? E di fatto poi l'attacco che alla scuola, che invece è strettamente e squisitamente politico, passa sempre in secondo piano, no? Invece mi pare che questo no abbia ribadito anche una consapevolezza in questo senso. Sì, perché infatti appunto siamo molto soddisfatte di questo risultato, perché ci dà la possibilità di lottare, di ottenere qualcosa di meglio, di far stracciare lo stesso atto unilaterale. Perché per esempio inseriva le 30 ore anziché le 27, aumentava di 3 ore settimanali il rapporto con il contatto con i bambini nella scuola dell'infanzia. E infatti tutte queste, diciamo, le varie riforme previste dal contratto decentrato, no? Salta all'occhio come tendano comunque a scatenare una conflittualità tra le maestre, tra le lavoratrici. Brava. No? Per cui appunto c'è, cioè, il lavoro di una ricade su quella delle altre, no? Poi appunto sappiamo che anche se questo accordo è stato sospeso, comunque delle misure in realtà sono entrate in atto, no? Perché la supplenza non viene garantita per i giorni di malattia, quindi voi siete già in una situazione, cioè, molto molto a rischio, insomma, molto già pericolosa, no? Sì, e quello che sì. Diciamo è molto importante, secondo me, sottolineare che voi nella lotta siete molto unite, e quindi appunto c'è un rifiuto proprio di questa logica di divisioni, no? Cioè, ad esempio, leggevo in questo contratto decentrato c'è la creazione di questa super maestra che, oltre a fare il ruolo di educatrice, deve anche organizzare il lavoro delle altre ed essere in contatto continuo, no? con il comune. Sì. E c'è anche un altro discorso, per esempio, che il famoso concetto della scuola azienda, no? In cui la scuola deve autogestirsi e sostenersi e praticamente e dimostrare, no? Personale precario, esatto. Per esempio, per le supplenze. Questo sì, però sì. Non ha nessun cioè non viene tenuto in nessuna considerazione, perché in effetti questo è l'attacco politico. Allora non interessa niente più della formazione o della crescita dei bambini. Infatti. Allora interessa preparare del materiale umano addomesticato sia come insegnanti sia come bambini, cioè la cosa più importante che passerà sarà la capacità di obbedire. Sono entrati in una classe, zitti, l'autorità dice questo e questo devono fare, quindi non c'è più crescita, no? Infatti, ed è per questo che ha molto valore questo no, perché proprio ha fatto vedere che le insegnanti e le educatrici comunque non vogliono accettare questi ricatti, non sono d'accordo sull'impostazione verticistica e aziendale della scuola e dei nidi, perché comunque la distruzione della collegialità educativa è quella che poi va a incidere sull'aspetto pedagogico, quindi certo. Comunque io sinceramente la prima volta che ho letto l'atto unilaterale, la prima immagine che ho avuto davanti è stata di me in classe con le colleghe che litigavamo, perché di certo, fatto tu puoi venire, tu devi entrare un'ora dopo, tu devi spostarti, tu devi cambiare il turno, cioè litigi tra le colleghe in mezzo ai bambini, che è una delle cose più brutte che può avvenire in un contesto educativo. Senti, io volevo anche chiederti, visto che la vostra è una lotta che va avanti, cioè, da ormai mesi e mesi, quindi insomma una lotta lunga e dura, volevo chiederti anche un poco, cioè, come, cioè, l'hai vissuta tu, ora non so che ci sono anche altre tue colleghe là, ma in generale come l'avete vissuta anche in quanto donna, anche per conciliare un po' i tempi di vita, cioè anche un po' rispetto al fatto che non è facilissimo anche ad esempio scioperare quando si sa che dall'altro lato tu stai servendo un servizio che a sua volta serve ad altre donne come te, stanno andando a lavorare, che quindi comunque c'è una responsabilità, che lasci questi bambini magari non sai bene dove, cioè comunque anche un lavoro di responsabilità. Quindi in generale sì, come l'abbiate vissuto tu in prima persona, poi non so se c'è qualcun altro anche che vuole intervenire magari. Sì, guarda, io personalmente non so da quanti mesi sto H24 in lotta praticamente, quindi vuol dire molte ore di lavoro sulle questioni, lavoro anche di sera, lavoro il sabato e la domenica, perché comunque al di là cerca di far incastrare si cerca di far incastrare i tempi di vita con la lotta, perché si sa che comunque non c'è altro da fare, e quindi noi è da quest'estate che praticamente stiamo in Campidoglio organizzandoci con i turni, con chi può tenere i bambini, con chi si organizza, porta da mangiare, diciamo c'è una rete solidale che sì, ha cercato di sopperire a tutte le difficoltà che ci sono in quanto donne, e appunto nel dover tenere in piedi sia la lotta che l'attività lavorativa e i tempi della famiglia. Però infatti è un bel esempio la vostra lotta, perché appunto essendo con un protagonismo così marcato femminile, insomma, visto che più del 90% sì, no, del settore sono lavoratrici donne, però è un bel esempio di solidarietà e auto-organizzazione, insomma, perché appunto sì, forse sì, reti anche tra l'altro anche c'è una solidarietà forte tra il personale precario e il personale di ruolo. Si è creata un'alleanza molto forte in tutto questo periodo, si sono creati per esempio dei gruppi su WhatsApp, delle connessioni per consentire alle insegnanti sul posto di lavoro e alle educatrici di capire se c'era del personale precario libero per venire a fare supplenza, e quindi anche diciamo sbugiardare l'amministrazione nel momento in cui diceva che non c'era personale da inviare per le supplenze, perché una delle risposte più frequenti per esempio era questa, per esempio, e siamo riuscite in questo modo a ottenere che le precarie lavorassero. Per esempio c'è sempre riportandolo la lotta sul piano politico, c'è questo tentativo molto forte e in parte purtroppo è riuscito tra virgolette, perché camminano veramente come treni e non guardano nessuno, di dividere i due circuiti, no, del privato e del pubblico, di affossare il pubblico e di privilegiare il privato come momento elitario in effetti, no? E questo già comincia dagli asili. Sì, esatto. Dalle scuole. Guarda, dell'infanzia. Per quanto riguarda gli asili nido, il processo di privatizzazione qua al Comune di Roma è galoppante, nel senso che siamo arrivati ad avere più nidi privati che nidi comunali sul Comune di Roma. Certo, quindi diciamo è abbastanza forte. Poi quest'anno l'assessora ha anche dato ulteriori nidi costruiti con fondi pubblici in concessione, ha dato 8 nidi in concessione. E meno male che lo privati. Fa una donna, insomma, no? Sì, meno male, infatti. E oltre a questo, nella scuola dell'infanzia si concretizza più che esternalizzando il servizio, la cosa si concretizza non assumendo personale nuovo. Quindi abbiamo tantissimo precariato, e quindi in questo modo l'amministrazione continua a dire che non può aprire nuovi servizi. E poi comunque non ha... certo, però anche le condizioni di... Adesso manderà a casa, quello che vuole fare è mandare a casa le precarie, che ovviamente essendo insegnanti ed educatrici dovranno trovare un altro sbocco lavorativo, e per cui è molto facile che possano finire a lavorare poi nelle strutture private, dove sappiamo bene come si lavora, sappiamo bene che le ore sono il doppio e che lo stipendio è la metà. Appunto, perché poi è questo insomma fondamentale, no? Che negli asili privati insomma le condizioni di lavoro sono pessime, insomma, forse sono anche pessime, peggiori. È difficile la lotta sindacale perché sono molto più ricattabili. Però, quindi diciamo, non è facile, non è però facile. Infatti è una scelta di fondo che mira proprio a questo: da una parte a precarizzare il personale, quindi a togliergli capacità contrattuale, ma dall'altra proprio a creare i circuiti privati. Cioè, noi abbiamo l'esempio eclatante delle scuole negli Stati Uniti. Le scuole pubbliche sono dei ricettacoli di persone che non possono permettersi altro, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, lasciate completamente abbandonate a se stesse in condizioni disastrose. Poi ci sono i circuiti privilegiati delle grandi strutture private. Sì, diventano proprio degli istituti di sorveglianza, che è un po' quello a cui stanno riducendo pure gli asili, no? Perché se una maestra si ritrova con 30 bambini, è chiaro che di attività formative ed educative se ne fa poca. Certo, certo, infatti è questo l'elemento che ha portato molte più lavoratrici, sia di ruolo che precarie, a questa lotta, perché comunque sono loro sul posto di lavoro e sono loro che vedono proprio sulla faccia dei bambini quello che avviene introducendo questi cambiamenti. E essendo persone che hanno tutte una preparazione culturale e scolastica, è chiaro che in senso tutto stride con quello che hanno appreso da un punto di vista pedagogico e con quello che vogliono applicare. Ma d'altra parte il neoliberismo è un ritorno a condizioni ottocentesche, soprattutto per l'infanzia. È un dato di fatto che da noi, nel nostro paese c'è ancora resistenza, perché siamo passati attraverso dei percorsi che politicamente sono stati più forti. Ma negli altri paesi questo percorso, che è già molto più avanzato, nella stessa Inghilterra, nella stessa Gran Bretagna, dicono che i bambini nelle scuole dell'infanzia devono essere supportati da proprio la Croce Rossa, perché non possono mangiare la merenda, non hanno da mangiare, vengono denutriti, malnutriti, non sanno dove metterli. Cioè siamo a livelli proprio ottocenteschi. D'altra parte la società vittoriana è una società simile a questa. Senti, noi ti dobbiamo salutare perché abbiamo i tempi, come si dice, di trasmissione. Ti ringraziamo tantissimo e dai, com'è? Lottare sempre. Arrendersi mai. Dai, dai. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. With you and all that jazz, you're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You got the skin I love to touch, and I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste, and your fingertips can't be replaced. Oh baby, what you got nobody has, and I've got you and that jazz. We'll be right back. Pronto? Allora, pronto? Sì, pronto. Ecco, ci siamo. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, siamo in collegamento con un'altra operatrice. Possiamo chiamarti così? Non so se è il termine esatto. Educatrice delle scuole per l'infanzia. E vorremmo chiederti tutta una serie di cose proprio su sia sulla vostra lotta, sia sulla vostra condizione, sia sulla situazione generale. Ok, sto qui per voi. Ciao Barbara. Senti, ciao. Io giusto perché insomma ti abbiamo chiamata a quest'ora e sappiamo che stavi là con tuo figlio, tua figlia, non so figlia. Bene. Sì. La figlia. E quindi una domanda ti faccio così proprio da questo episodio, un po' come hai fatto anche durante questi periodi di mobilitazione a conciliare anche diciamo la tua vita privata, questa bambina e con questa cosa, cioè questa domanda proprio da donna a donna che ti faccio perché non è facile, no. Immagino. No, infatti sono sempre abbastanza di corsa con gli incastri, una vita fatta a Tetris e riuscire sempre a gestire, a controllare, a organizzare tutto quanto e sempre cercando di farlo al meglio, però ci sta, nel senso che comunque la cura in una parte della famiglia è cioè, fondamentale, però il valore che io trasmetto a mia figlia è anche con la lotta che faccio con il quotidiano, quindi magari la bilancia diciamo cerco sempre di mantenerla un po' in equilibrio, cercando sempre di non togliere a lei, però cerco di essere presente anche quando ci sono manifestazioni, scioperi, magari dedico meno tempo, nel senso che ecco magari su uno sciopero o su una manifestazione di 8 ore vado, ci sto, faccio una presenza, cerco di stare il più possibile e torno poi a fare il resto, quindi so che tante volte uno pensa che poco tempo vale a niente, mentre invece no, io penso invece proprio tutto il contrario, che è fondamentale proprio far vedere la decisione a prescindere, quindi si fa. Ce la fa insomma a fatica qualche volta. Questo, un po' di questo però apre a tutta una serie di considerazioni sul lavoro di cura che ci viene affibbiato ancora e in maniera molto pesante. Perché, tanto per farti una domanda, quante sono le presenze femminili come all'interno delle scuole d'infanzia e quante quelle maschili? Beh, in realtà per esempio nel nostro nido a livello proprio di educatrici siamo ovviamente tutte quante donne, però è capitato con le supplenti, i supplenti anche i ragazzi, quindi diciamo è un po' atipica come figura rispetto magari un po' all'immaginario collettivo, forse un po' più vecchio, però forse sta un po' cambiando la cosa, spero. insomma è un dedicarsi anche da parte loro che potrebbero insomma portare quel valore aggiunto, perché no, però no. Certo sono un pochino in minoranza rispetto alla figura classica che è stereotipata, nel senso la donna, la cura, la femmina, la mamma, per antonomasia la figura che comunque prevale su quella maschile, mentre invece no. C'è anche però un problema che quanto più diciamo gli stipendi e comunque la considerazione si abbassa, tanto più il lavoro si femminilizza. Quindi... Ah, sì, assolutamente sì. Assolutamente su quello sono più che d'accordo, nel senso che si pensa che a livelli un pochino più tra virgolette, chiamiamoli elevati, si pensa che ci sia un sapere superiore dell'uomo, mentre invece assolutamente, anzi, forse dietro grandi uomini, non per fare la frase fatta, ma ci stanno sempre grandi donne, quindi è un peccato, nel senso che comunque la donna da molti aspetti, molti punti, anche e soprattutto da questo punto di vista un po' di capacità organizzativa, no? Cioè. Di questa capacità di fare 800 cose il famoso multitasking. Bravissimo. Noi siamo multitasking, noi forzatamente magari... a livello informatico magari facciamo difficoltà, ma poi nella vita pratica lo sappiamo proprio Noi abbiamo tanti sportellini, ci hanno abituate, perché diciamo che il femminile è una costruzione sociale, quindi non è che noi siamo nate così, ci vogliono così e ci hanno costruite così dalla culla, anzi secondo me addirittura dal pancione, ci sono tutti una serie di input al femminile che ci arrivano, per cui noi siamo impostati in un certo modo perché il sociale ci vuole impostarci così, e cioè, è chiaro che poi è più difficile uscirne. Guarda, se mi posso permettere che interrompo, c'è una cosa perché mi ha fatto pensare a una cosa, diciamo, che vivo personalmente, nel senso che io, proprio perché educatrice, quando è nata mia figlia, ho praticamente riempito casa di giochi di tutti i generi, che ce ne fossero di legno, materiale naturale, e che comunque rispecchiavano un po' la funzione educativa asessuata, nel senso che comunque il gioco di per sé è asessuato, poi è l'utilizzo e il modo in cui anche un po' il marketing lo utilizza, che poi direziona se sul femminile o sul maschile. Mentre invece a mia figlia ho sempre cercato di dare tutto, dal meccano alla cucina, alla bambola, al collage, tutto. Certo. E lei nella scuola, per esempio, ha trovato anche un po' di difficoltà, perché i bambini e le bambine questa invece differenza nel gioco la vivono ancora nel 2016, quasi, praticamente quasi nel 2016. Anzi ti dirò che questa fase, cioè appunto io la chiamo sempre neoliberista perché questo è in effetti, ripropone i ruoli in maniera molto forte, è tornato il rosa in maniera fortissima dappertutto, il rosa, le fate, le damigelle, le regine, no? E guarda caso è ritornato in un momento in cui vogliono ridefinire di nuovo i ruoli in tutti gli strati sociali, compresi quelli sul lavoro. La gerarchia della fabbrica risponde poi alla gerarchia in famiglia, eh? Cioè non è certo che la società è divisa in altri modi, il modello economico poi rispecchia il modello sociale. Molto. Bene, noi non so se no vai voleva fare un'altra, no, volevo solo ci litighiamo i microfoni. no il tempo purtroppo è breve, quindi c'è, cioè, giustamente, no, io volevo solo dire che a questo proposito, e che appunto comunque merito anche della lotta e anche il fatto di aver cercato tanto di trovare una sponda proprio appunto anche nei genitori, cioè in chi usufruisce del servizio, non so se magari, cioè, anche questa era una cosa interessante, perché quello che abbiamo detto prima è che appunto l'attacco poi, oltre a essere sulle maestre, quindi sulle lavoratrici vere e proprie, anche su chi dall'altro lato, come lavoratrice, soprattutto anche come donna, ma in generale come genitori, comunque invece devono soffrire del servizio, perché in realtà tu stai facendo un lavoro di cura per qualcun altro, e questo sembra sempre essere un servizio in realtà non essenziale, per cui spesso i tagli poi arrivano qui, perché sembra che sia sempre una cosa secondaria, perché alla fine ci può essere sempre la nonna, la mamma che può in qualche modo sopperire a casa, la sorella, insomma, e comunque c'è, cioè, spesso figure sempre femminili, e quindi penso sia importante il fatto di aver trovato una sponda anche nei genitori, insomma, quindi volevo giusto valorizzare questa cosa, non so se voi state andando avanti con questo percorso, questa... Sì, noi abbiamo fortunatamente riscontrato parte dei genitori, anche proprio a livello, almeno parlo del mio municipio perché è la realtà che conosco più direttamente, e comitati che si sono organizzati, una rete di genitori che si sta tenendo in contatto con anche con, cioè, le forme più mediatiche, WhatsApp, Facebook, eccetera, e facendo anche sposti alla procura, facendo diffide, nel senso che comunque l'hanno presa anche non soltanto come un momento di lotta intesa come protesto e basta, ma proprio come un voler far sentire, in un momento in cui la svalutazione della scuola è da ogni punto di vista, cioè dal punto di vista educativo, dal punto di vista formativo, cioè da qualunque punto di vista è attaccata continuamente, e tra, diciamo, fortunatamente diciamo il genitore che non si arrende e che vuole portare avanti, insomma, il suo diritto di avere una struttura che comunque tuteli il figlio, non soltanto a livello fisico, ok, c'è un posto dove tenere mio figlio, no, ma che lo tuteli anche a livello proprio di crescita, di autonomia, di esperienze, da tutti i punti di vista, fortunatamente ancora resistono. Certo è che l'attacco è abbastanza pesante per continuo, quindi questo svalutare un po' il servizio, io parlo ovviamente del servizio educativo come esperienza diretta, fatto che arriva al servizio educativo fa svalutare talmente tanto che si sta tornando un po' al concetto di un servizio che serve, perché poi in realtà è così, cioè le famiglie lavorano tutti, madre, padre e anche i nonni in alcune situazioni, perché sono nonni giovani ma non vanno in pensione per, grazie insomma alle varie leggi Fornero eccetera, quindi cioè, diventa più una necessità, però di fronte a quella necessità c'è ancora qualcuno che riconosce la validità educativa, quindi insomma ma infatti tenere su questo. Sì, quello che abbiamo sottolineato anche prima, ecco, che è politico, nel senso che non state lottando soltanto per il salario, le condizioni diciamo di lavoro, ma è proprio una rivendicazione di un altro modello di formazione, che quindi forse è anche un altro modello proprio di società in generale, no? Perché si comincia dalla scuola insomma per arrivare anche ad estenderla. Certo, perché poi fa comunque comodo che comunque arrivare a una situazione in cui le famiglie sono un po' obbligate a tenere i figli in situazioni che in realtà non danno valore poi alla crescita dei bambini, dei ragazzi, io parlo in senso generale in questo caso, crea comunque una situazione di controllo da parte di chi sta al potere, di certo. diciamo potere, e quindi fa comodo, no? Perché dei ragazzi che non sono comunque seguiti, tutelati, informati, soprattutto informati, perché è quella la cosa fondamentale, no? Devo cercare di tenere i giovani che sono un pochino più freschi, più ignoranti possibili. Diciamolo, ma così è più facile, certo. li tengo più sotto controllo e quindi li posso gestire meglio. Sicuramente. Diciamo la solita storia del ti tengo ignorante così faccio come voglio. Certo. Va bene. Non siamo molto d'accordo, quindi staremo a vedere, insomma. Allora, grazie tantissime di questo collegamento. Grazie. Buona lotta a tutte, a prestissimo e dai. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. What am I supposed to do? There are too many of you. Too many of you. Yes, sometimes the girl and me. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. L'esercizio illimitato della forza. Nella loro illusione legalitaria, socialdemocratiche e socialdemocratici, riformiste e riformisti, istituzionali e paraistituzionali, credono che le regole legislative abbiano in sé una forza impositiva, ma il potere capitalista patriarcale è sempre assoluto. La limitazione del potere non è esercitata dalle regole, ma dalla forza capace di imporre le regole e di trasformarle. Il legalismo attribuisce alle regole una forza che le regole non hanno, perché non viene dalle regole stesse, ma dai rapporti di forza e dai ruoli. E le istituzioni, in tutte le loro articolazioni, lo sanno. L'autonomia femminista ha riconosciuto la brutalità del rapporto di forza tra generi, classi e etnie, partendo da una denuncia dell'arbitrarietà delle regole esistenti. Il buonismo disonesto della convivenza civile, delle bacheche rosa, degli appelli allo Stato, ha portato un attacco mortifero alle lotte del movimento femminista nel loro impegno a leggere delle regole la vera sostanza. Si è così aperta la strada per la costituzione di una legalità liberticida e femminicida, un'operazione questa sì violenta, in cui il linguaggio esiste essenzialmente per mentire. La menzogna, l'inganno, la simulazione dietro i linguaggi politicamente corretti non sono che forme aberranti di comportamento sociale. La socialdemocrazia destra moderna è un'economia criminale, non tanto perché si fonda sulla violazione delle regole faticosamente contrattate nel passato dal lavoro nei riguardi del capitale, quanto perché tale violazione sistematica non è più considerata un crimine, se non nella visione autolesionista, chissà quanto in buona fede, dei legalisti. Il crimine sta nell'esercizio illimitato della forza istituzionale e familiare, anche perché a questa forza non si contrappone alcun'altra forza. Il crimine è nella violenza che si esplica e si perpetua nei commissariati, nei CIE, nelle guerre neocoloniali, nelle carceri, nelle caserme, in famiglia, nelle piazze, contro ogni forma di protesta, di alterità, di asimmetria. Il crimine è nella normalità di questa società disumana. La violenza non è un elemento particolare ed occasionale della relazione istituzioni cittadine-cittadine e delle relazioni sociali, ma ne è l'elemento fondante e riproduttivo. Nessuna ne è al riparo. Se esiste una legittimità, concetto ben diverso dalla legalità, questa appartiene a chi tenta di sottrarsi al ricatto economico e consumista di questa società patriarcale, di cui l'istituzione è la protesi identitaria, a chi cerca con sforzo caparbio, capacità, impegno, pagando un prezzo alto, di sovvertire i circuiti dello schiavismo neoliberista.